Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, è finito un Giro d'Italia che sembrerebbe a prima vista, ma senza lontanamente pensare di metterci la mano sul fuoco, insomma a prima vista, ripeto, sembrerebbe un po' meno sospetto di prima. E ricomincia in grande stile, in compenso, il disastro del calcio scommesse. Dal polsino di Ivan Basso direi che siamo passati alle manette per i calciatori e che calciatori. I fatti ormai li conoscete, nel dubbio riassumo rapidamente i provvedimenti più gravi, che sono la custodia cautelare in carcere per Stefano Mauri, giocatore e capitano della Lazio, lo stesso provvedimento, custodia cautelare in carcere per Omar Milanetto, ex genoano, adesso in forza al Padova, per Alessandro Pellicori, giocatore svincolato dal Queens Park Rangers, anche lui custodia cautelare in carcere, idem per Acerbis, giocatore del Vicenza, per Tisci, ex calciatore, per Matteo Gritti, giocatore dell'Albino Leffe, e per Cristian Bertani, ex del Novara, ora alla Sampdoria, custodia cautelare in carcere. Sono alcuni dei provvedimenti che hanno fatto più rumore stamane nelle prime ore della mattinata, insieme ad altri due, all'avviso di garanzia all'allenatore della Juventus, Conte, indagato per associazione a delinquere finalizzata alla truffa e alla frode sportiva, quindi con un'imputazione molto ma molto pesante, si pensava all'omessa denuncia nei suoi confronti, e invece è indagato per associazione a delinquere, ripeto, finalizzata alla truffa e alla frode sportiva, e forse ancora più clamorosa la perquisizione, insomma, di stamane a Coverciano, quindi varcando la sacra soglia, no, del ritiro azzurro, dello storico ritiro azzurro di Coverciano, nei confronti di Domenico Criscito, che era in ritiro con la nazionale. Sono arrivati gli agenti della mobile di Firenze, che hanno notificato l'avviso di garanzia a Domenico Criscito. Ora, l'avviso di garanzia, è bene ricordarlo, e stamane lo hanno già fatto giustamente in tanti, non è è uno strumento di difesa, anche, però insomma è sempre un avviso di garanzia. Hanno cercato gli agenti di non svegliare gli altri giocatori convocati in ritiro, mentre la stanza di Criscito veniva perquisita. Poi nel frattempo c'è stato il risveglio generale e si è arrivati poi alla decisione di depennare Criscito dall'elenco dei 25 azzurri. Saranno 23 entro domani. Per il momento Prandelli ha fatto una prima selezione a 25, che verranno entro le ore 12 di domani, verranno ridotti a 23. Per il momento sono usciti dalla rosa degli europei il portiere Viviano, Criscito, Azzori, Ranocchia, Schelotto, Cigarini e Verratti, e altri due posti sono da liberare, e le indiscrezioni dicono che toccherà probabilmente a Giaccherini e a uno tra Borini e Destro. Questo lo vedremo prossimamente, ma questa in una giornata così interessa abbastanza poco. Credo che sia più interessante, per quanto tristissimo, a un anno esatto dalla prima deflagrazione dalla procura di Cremona, sia più interessante sentire il PM Di Martino, che comincia dalle novità provenienti dall'Ungheria. Il provvedimento riguarda 19 persone, vi è una gradazione nelle misure, e sono state per la maggior parte eseguite. Voi sapete, lo sapete già, che una delle novità più importanti è costituita dalla presenza di un gruppo di ungheresi nell'ambito delle persone destinatarie di questi provvedimenti. Alcuni di costoro sono già detenuti in Ungheria per fatti identici a quelli in ordine ai quali si procede in Italia. Il procuratore Di Martino. Certo, la nazionale italiana in raduno a Coverciano una giornata così non se l'aspettava di sicuro, nonostante le avvisaglie di tempesta si fossero addensate ormai da tempo, ma in particolare dalla serata di ieri, quando Enrico Mentana sulla 7 aveva preannunciato proprio per la nottata o per l'alba una raffica di arresti, anche di primo piano, come poi si è effettivamente verificato. La Nazionale pensava tutt'altro oggi, tant'è vero che gli ospiti d'onore di giornata in tarda mattinata erano Simone Farina e Fabio Pisacane, e cioè i due, non dico eroi, ma qualcosa di simile, cioè i due, le due facce pulite del calcio scommesse, proprio per essersi rifiutati all'epoca di partecipare ad accordi a Combin, ma anziché starsene in silenzio come in tanti, anzi in troppi hanno fatto, avevano direttamente denunciato. Certo, fa sensazione il fatto che la Nazionale sia stata non lambita ma direttamente toccata nella persona di Criscito, e sentiamo Di Martino di nuovo da Cremona che spiega il perché. Ci sono state delle perquisizioni, queste si riconnettono più che a quella che è l'ordinanza di custodia cautelare, si riconnettono alle vicende del Siena relative al 2011, ci sono grosso modo 7-8 partite del Siena che diciamo sono sottolente e per le quali ci sono delle dichiarazioni che fanno ritenere possibili delle manipolazioni, e quindi questo ha comportato una serie di perquisizioni che hanno interessato non solo giocatori ma anche dirigenti, allora dirigenti o comunque facenti parte dello staff della squadra. Se Coverciano è la Sacra Soglia, il Vaticano che cos'è? Domanda un ascoltatore. Non è male, non è male, devo dire, sinceramente. Oh, poi perquisizioni della polizia stamani in casa di Antonio Conte, sempre nell'ambito di questa inchiesta. E Conte è rientrato in casa dopo la perquisizione, pochi minuti dopo che era terminata. L'ANSA ha comunicato che all'arrivo degli uomini della questura torinese ad accogliere i poliziotti è stato il fratello Daniele, perché l'allenatore della Juventus si trovava fuori città. Uno degli epicentri di questa ondata di provvedimenti cautelari restrittivi è certamente Siena. Tant'è vero che ci sono parecchi, lo stesso Conte è indagato per associazione a delinquere finalizzata alla truffa e alla frode sportiva, proprio per episodi, per partite che riguardano la sua avventura dello scorso anno a Siena, non certamente per quest'anno, per l'anno appena concluso alla guida della Juventus. Sentiamo di nuovo il procuratore Di Martino. Siccome c'è stato un intervento a Coverciano, vorrei che la cosa non sia enfatizzata eccessivamente, nel senso che l'intervento si riferisce soltanto alla persona di Criscito, che ha ricevuto un'informazione di garanzia che con riferimento al quale doveva essere svolta una perquisizione, quindi c'era il problema di consentirgli di partecipare alla perquisizione o di nominare una persona che in sua vece partecipasse alla perquisizione. Non c'è nessun provvedimento. Eventualmente potrebbe partecipare, non c'è niente di preclusivo. Fin qui, no, molto oltre, insomma, Di Martino, ma fin qui la sintesi delle cose principali, dei provvedimenti principali da lui annunciato e delle spiegazioni date stamani in una lunga, interminabile conferenza stampa. Ovviamente ci sono i primi commenti, tra poco ascolteremo anche i vostri, i primi commenti meditati. Giovanni Trapattone, ai microfoni Rai stamane l'ha definita una notizia devastante e ha aggiunto: se la magistratura si muove è perché qualcosa di certo c'è. Andrea, chiamato da Genova, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Senta, io intervengo perché avevo avuto una discussione con Carlo Genta a riguardo di Milanetto, dove avevamo discusso sul fatto che secondo me aveva sbagliato nel criticare i tifosi dopo quel famoso derby Genoa-Sampdoria, dove aveva detto che i tifosi del Genoa erano dei bastardi. Mi vorrei chiedere a lei se alla luce dei fatti avevamo torto noi tifosi a pensare che avesse potuto vendersi, giocarsi anche il derby, oppure se siete ancora convinti della buona fede di Milanetto. La ringrazio. Io direi di sì, io credo che il comportamento successivo dei tifosi del Genoa, e non parlo ovviamente della parte migliore della tifoseria, ma il comportamento di quest'anno, di 3-4 settimane fa, credo sia ancora abbastanza fresco nella memoria per non far sì che questo provvedimento nei confronti di Milanetto riscatti quello che gli ultragenovani sono riusciti a combinare in questi anni. Allora non si parlava affatto di partite comprate o vendute nel momento in cui ci fu quell'episodio con Milanetto e con, in particolare, ma anche con altri giocatori del Genoa, si parlava soltanto del fatto che voi tifosi avreste voluto delle combine, avreste voluto voi e preteso voi delle combine in maniera da mandare la Sampdoria in Serie B. Quindi mi dica lei se oggi, caro Andrea, lei o chi la pensa come lei, come potete sentirvi abilitati a sdottorare voi in materia di etica. Paolo, Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno, dottor Ganzi. Sì. Io volevo fare un doppio intervento molto breve, veloce e conciso, che riguarda uno strettamente e semplicemente lo schifo che emerge e tutto ciò che poi questi calciatori prendono in giro, cioè noi, ovvero la passione che abbiamo per il calcio e tutto ciò che ci gira intorno. Parlo coloro che vanno, pochi ormai, allo stadio a pagare il biglietto, e tanti coloro che invece vanno a pagare i vari abbonamenti su Mediaset Premium, Sky, eccetera eccetera. E questa è la prima deduzione abbastanza logica, palese e lampante, ma d'altronde è così. L'altra, però, che le volevo chiedere direttamente a lei, sempre in riferimento a Milanetto, io mi ricordo bene che lei fece un'intervista con lo stesso, nella quale non bisogna assolutamente giustificare i tifosi del Genoa che fecero quelle nefandezze totali, però neanche, e questo me lo deve dottor Garanzini, sentirmi dire da lei bisogna prendere esempio, perché questo me ne ricordo molto bene, da un signore come Omar Milanetto. Le chiedo cortesemente di almeno ritirare i gesti. No, Paolo, perché stiamo parlando di due situazioni diverse. Se uno si ribella agli ultra, se uno si ribella alla dittatura degli ultra, da me avrà sempre approvazione, qualsiasi siano eventi che poi si vengano a creare da lì in avanti. Torniamo a quel momento, a quel punto, ripeto. Erano gli ultra che volevano comportamenti anomali e risultati preconfezionati da parte dei giocatori del Genoa pur di vedere in Serie B la Sampdoria. E quindi, non, le ripeto, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di tutt'altro, evidentemente, no? Stiamo parlando di quelli sì, veri comportamenti anomali. Hanno pagato quei tifosi per quei comportamenti? Boh, io non credo, anzi non mi risulta proprio, ripeto, mi riferisco a quegli episodi. Poi per la degenerazione delle ultime settimane qualche daspo nel frattempo è arrivato. Milanetto, che potrebbe aver commesso un altro genere di colpa, un altro genere di peccato, pagherà a sua volta molto, ma molto duramente, se verrà ritenuto davvero responsabile di questo accordo con Mauri e con altri ancora, per quella partita Lazio-Genova. Ma il fatto che si riuscisse a dimostrare eventualmente, e magari si dimostrerà, che Milanetto era una mela marcia, non per questo fa diventare sane le altre mele marce di quella orribile vicenda. Daniele, Padova, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Innanzitutto, per quello che può valere, massima solidarietà, tra virgolette, nei suoi confronti, perché questa vicenda di Milanetto l'ha ben descritta lei e sono assolutamente d'accordo in quello che sta dicendo. Capisco anche che è molto difficile, penso, tirar fuori anche un argomento da poter mettere sulla discussione per lanciare anche un messaggio e poi vedere come siamo un po' tutti disorientati, credo, nel senso che qualsiasi giocatore ormai o comunque molti di questi sportivi ci riservano sempre qualcosa dietro l'angolo, e quindi capisco magari anche da parte sua un minimo che ci possa essere di disorientamento su questa vicenda. E un'ultima cosa, se posso aggiungere, su Conte, cioè mi ricordo una sua conferenza stampa nella quale diceva che le presunte voci sembravano essere atte a destabilizzare l'ambiente, e tirando fuori che sempre questi soliti discorsi su cose occulte che vengono poi messe in campo per destabilizzare. Ecco, mi auguro che sia veramente una destabilizzazione, perché se così non fosse, insomma, non sarebbe una vicenda piacevole. Ma sa, Daniele, grazie. La destabilizzazione è un leitmotiv, no, di questi momenti, cioè la magistratura a orologeria, la magistratura che colpisce sempre in determinati momenti per destabilizzare quello, per far male a quell'altro, eccetera. Quante volte le abbiamo sentite queste fregnacce, anche e soprattutto in campo politico? A me sembra che se c'è stata un'orologeria in questo frangente è stato quello di far finire il campionato, cioè è stato quello, non certamente di penalizzare, ma è stato semmai quello di evitare delle complicazioni. Cioè, le chiacchiere i provvedimenti di oggi sono la risultante finale di chiacchiere che durano da mesi, a carico di nomi che, ripeto, da mesi sono purtroppo sulla bocca, se non di tutti, di tanti. Il fatto che abbiano lasciato finire il campionato significa che per una volta la giustizia non è a orologeria, perché avrei voluto sentire cosa diceva, come sarebbe stata accolta una notizia del genere un mese fa, un mese e mezzo fa, quando magari la lotta per il titolo era in pieno svolgimento. Quindi per una volta direi che almeno questo proprio non si può dire. Ancora da Genova, Diego, buongiorno. Sì, buon pomeriggio, grazie per aver richiamato. Io sono tifoso genuano e purtroppo ancora una volta il Genoa sembra essere coinvolto in un fatto che con lo sport non ha nulla a che vedere. Ciononostante mi auguro che questa volta si faccia veramente pulizia, anche se questo poi si dovesse ritorcere contro. Ritorcere contro e poi un problema di linea. Proviamo a ripescarlo. No, va bene, lo faremo più tardi, Diego. Tanto ci facciamo compagnia fino alle 3. No, forse l'abbiamo già ritrovata. No, sono qua. Eccola. Continui. No, dicevo, quindi da un punto di vista, io spero che veramente si riesca a fare piazza pulita, che la misura sia uguale per tutti, quindi qualora dovesse dimostrare la responsabilità anche di altre squadre più importanti e più con un bacino di utenza maggiore, che venga usata lo stesso peso, la stessa misura, cosa che in passato non è stata fatto, quindi che finalmente la giustizia sportiva sia giusta, cosa che fino adesso non è stata. Beh, insomma, sa, perché Diego, i provvedimenti che sono stati presi nei confronti di certe piccole non sono stati presi nei confronti di altri, comunque lì poi viene fuori l'ambito del tifoso. Ma sì, appunto, quindi... Diego, lasciamolo stare almeno per oggi l'ambito del tifoso. L'ultima osservazione, prego, che volevo fare era questo. Lei giustamente, tornando sull'affare Milanetto, diceva che in quell'occasione erano i tifosi a dover credere a imputare alla squadra dei comportamenti antisportivi per mandare la Sampdoria in Serie B. A cercare di costringerli. Semmai quello che la tifoseria, che io non voglio difendere pur essendo un tifoso, però quello che la tifoseria obiettava alla squadra era uno scarso impegno affinché il derby finisse sullo 0-0, un risultato che avrebbe consentito. Ma poi abbiamo visto come è finito quel derby, mentre invece io ricordo bene, e chi vuole, chi ha memoria, poi chi non ce l'ha o non la vuole avere non ha importanza, ricorda bene invece come erano state accolte le prestazioni del Genoa precedenti, quando aveva battuto delle dirette rivali della Sampdoria. Tutto era nato lì, perché quelle partite la tifoseria avrebbe voluto che Genoa le perdesse anziché vincerle, a proposito di etica sportiva, no? E questa gentaglia si è permessa di dare lezioni di etica, che poi queste lezioni di etica di queste lezioni fossero destinatari Milanetto piuttosto che Sculli piuttosto che altra gente di cui oggi certamente bene non si può parlare, questo è tutto un altro paio di maniche, se vogliamo ragionare, se invece vogliamo fare, come ha detto lei, i tifosi, per l'amor di Dio. Ma oltretutto mi fa notare un ascoltatore che in una foto che ormai circola liberamente insieme a bosniaci, ungheresi, insomma insieme a bella gente, e a Criscito e a Sculli, in questo caso non Milanetto, insieme a Criscito e a Sculli, ci sono due capi ultra del Genoa, perfettamente identificabili, no? A proposito di commistioni. Lo so, faccio fatica come nei giorni clou a orientarmi tra i messaggi, non faccio fatica a dare il bentornato a Marco Bellinazzo. Buongiorno Marco. Ciao Gigi, buongiorno a tutti. Ecco, però mi sono, vedi, un po' confuso, perché in realtà il vero benvenuto va a Francesco Bellinazzo, che è nato quanti giorni fa? Beh, qualche giorno fa, il 16 maggio. Il 16 maggio, che è la prima new entry di famiglia, no, mi pare? Assolutamente sì. E quindi mi pare che allora il benvenuto assoluto è per Grazie Francesco. Grazie a nome di Francesco. E il bentornato è per Marco, che adesso ci aiuta come sempre in questo genere di vicende a orientarci un tantinello. Così a naso mi sembra di vederti un po' deluso da questo sviluppo, da questa deflagrazione di stamani. Che ci fossero in vista arresti e sviluppi importanti per l'estate lo si era detto già da molti mesi. Io appunto mi aspettavo però che ci fosse qualcosa in più. Leggendo le vecchie ordinanze e i filoni investigativi che si profilavano in quegli atti, immaginavo che alla scadenza di quest'estate si arrivasse poi con provvedimenti molto più importanti, con prove che riguardassero anche altre partite oltre a quelle già chiacchierate. Sì. E invece tutto questo mi pare non è avvenuto, o perlomeno non è avvenuto ancora. Il procuratore di Cremona, Di Martino, in particolare ci ha spiegato in questa conferenza stampa di stamattina che la partita clou è Lecce-Lazio, oltre poi a Lazio-Genoa, due partite su cui si discute da parecchi mesi. Ma tanti, però. Tanto è vero che la giustizia sportiva aveva già interrogato per esempio Mauri e Brocchi, oltre ad altri presunti responsabili. E dunque mi chiedo se effettivamente c'è stato un fallimento di quelle indagini che si profilavano, ripeto, negli atti delle precedenti inchieste, o se evidentemente non sono stati raggiunti adeguati elementi di prova per procedere poi con misure restrittive anche nei confronti di altri atleti. Quindi questo è un primo ordine di dubbi. Questa è la prima valutazione, il primo pensiero che ho avuto questa mattina, poi dopo aver letto insomma un po' di atti, non li ho ancora letti tutti per la verità, perché insomma ne sono parecchi, ma per il momento insomma sono abbastanza deluso. Detto questo, delle novità importanti ci sono, inutile negarlo. Innanzitutto oggi il procuratore Di Martino ha anche fatto capire che c'è un'ulteriore inchiesta, probabilmente da quella arriveranno importanti novità a Genova, oltre a quelle di Bari e Napoli che si conoscevano, quindi sono almeno quattro. E che restano tuttora, chiedo scusa, in sospeso, continuano ad aleggiare sul nostro calcio. Infatti non ha voluto fornire ulteriori dettagli per quanto riguarda il filone ligure. Tra l'altro, oltre al coinvolgimento ad alto livello, quindi a livello dirigenziale, societario, per il Siena, Di Martino ha anche fatto capire che potrebbero esserci sviluppi di questo tipo anche per altre due società, mi riferisco in particolare alla Lazio e a Lecce, anche se lui ha parlato di una testimonianza del relato che avrebbe tirato in ballo i vertici delle due società. Vedremo poi, lui ha fatto capire che si sta ancora indagando in questa direzione, è chiaro che poi ai fini di eventuali penalizzazioni questo cambierebbe di molto la situazione. Certo, certamente sì. Senti, c'è anche la sensazione che molti ascoltatori, poi magari ti girerò qualche mail di ascoltatori, la sensazione che a proposito di giustizia e orologeria, stavolta l'orologio anziché essere così tempestivo andasse vagamente indietro, insomma. Io capisco, come dire, la cautela della procura di Cremona, che magari ha voluto aspettare, come ricordavi tu prima, la fine del campionato, e ha voluto raggiungere con le rogatorie svizzere, con la collaborazione della polizia ungherese, ulteriori elementi a fondamento dell'inchiesta, ma questa è la giustizia ordinaria, la giustizia penale. Se i fatti fatti, bene o male, da cui è nata l'inchiesta sono gli stessi, non capisco per quale motivo la Procura federale, in questo caso la giustizia sportiva, non abbia deciso, ritenuto opportuno intervenire prima nei confronti di determinati soggetti. Il caso più eclatante mi sembra Stefano Mauri, che ha giocato e ha segnato in partite importanti, anche per esempio contro il Napoli nello scontro Champions, ma anche contro la Juventus. Poi la Juventus ha vinto, ma poteva essere importante quel gol, e sono stati realizzati da un giocatore che si sapeva essere quantomeno sospettato. Sì. Insomma, lui ha negato tutto nell'interrogatorio davanti alla giustizia sportiva, nel colloquio, chiamiamolo così, con i procuratori federali, ma in ogni caso dei sospetti fondati si avevano. E se, ripeto, se la procura della Repubblica di Cremona, quindi la giustizia penale, aveva magari convenienza e il dovere di ricercare ulteriori fonti di prova, magari la giustizia sportiva poteva, nel caso di Mauri come in altri casi, intervenire prima e perlomeno in sede, come dire, cautelare, anche se non esiste una disciplina cautelare ad hoc in ambito sportivo, però poteva prendere dei provvedimenti, procedere a qualche ulteriore deferimento. Invece si è consentito a determinati giocatori di svolgere le loro prestazioni in campo e magari si è avuta l'idea di qualche influenza che non doveva esserci. Si è voluta tutelare la regolarità del campionato in corso. Non è detto che così facendo sia stata garantita, ma così facendo si è probabilmente compromessa la regolarità del prossimo, perché adesso anche i tempi di smaltimento di tutti i passaggi e di tutte le tappe, ho l'impressione che si complichi non di poco. Assolutamente, la Procura federale ha in mano le carte, una parte delle carte della Procura di Cremona, dovrà acquisire a questo punto questi nuovi elementi, ha in mano le carte che arrivavano da Bari, non ha ancora quelli di Napoli e a maggior ragione non ha ancora quelli che saranno formati a Genova, dove appunto, ripeto, il procuratore capo Di Martino ci ha fatto intuire che esiste un'indagine importante che riguarda appunto i giocatori del Genova, probabilmente per quella partita con la Lazio, ma chissà, forse anche per altri. Noi stiamo parlando, anzi tu in particolare stai parlando con un linguaggio legale, no? Visto che la vicenda non solo lo comporta, ma lo esige del tutto. Io però non rinuncerei ogni tanto a un ripassino anche dei casi umani, perché mi pare che dovremmo avere un contributo di Albertini che parla della vicenda Criscito. Vediamo se lo troviamo, se non è già pronto, sì, dovrebbe essere pronto, ma non è detto. Non è detto, noi facciamo una bella cosa, mettiamo in onda un ascoltatore e nel frattempo lo cerchiamo con calma. Allora, interviene Tino da Reggio Emilia, buongiorno. Sì, buongiorno, dottor Giannini. Buongiorno. Io volevo chiedere questo, io sono tifoso della Juve, però se Conte ha sbagliato è giusto che paghi, perché queste cose fanno schifo e veramente fanno male sia al calcio che poi su tutte le cose. Però se lui non dovesse centrare, chi è che paga i suoi diritti? Perché la stampa, i giornali, tutti quanti, è normale che il suo nome fa audience, fa tutto, e quindi anche stamattina c'è la televisione, la sua foto in prima pagina. Non so, chiedo a lei, io di queste cose non saprei, grazie. Temo io la giro immediatamente a Marco Bellinazzo. Non è solo una questione di conti, cioè io credo che valga per tutti, no? Sto leggendo, perquisite le due abitazioni di Pellissier. Ora Pellissier non ha allenato la squadra che ha vinto il campionato, però è un signore che gioca in Serie A da un sacco di anni, ha segnato più di 100 gol con la maglia del Chievo, che probabilmente ne valgono 200 o 300 con una maglia più rispettabile, cioè più gettonata. Stamane è stata perquisita alle 4 la sua abitazione di Fenis, perché è un valdostano, un Pellissier, poi la sua casa di Verona. E questo, non parliamo di Criscito, non parliamo di Mauri, non parliamo di Milanetto. Marco, beh, se sei un personaggio pubblico ottieni benefici dal tuo diritto d'immagine, ma paghi anche le conseguenze di questa notorietà. Detto questo, per quanto riguarda Conte, l'accusa è molto, molto grave. Si era pensato, Gigi l'avevi ricordato anche tu, di un possibile accusa di legata all'omessa denuncia, però riguarda fondamentalmente poi l'ordinamento sportivo, e in questo caso invece la formulazione di un'ipotesi di reato importante come l'associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva mi fa pensare che appunto la procura di Cremona in questo caso abbia raccolto un numero di prove importanti e determinanti, perché effettivamente questa è un'accusa che poi rovesciata in ambito sportivo può portare anche alla radiazione, quindi sì. La situazione mi sembra, piuttosto seria. Lì ci sono delle dichiarazioni che appunto fanno riferimento a un intervento di Conte durante una riunione prepartita in cui si era chiaramente parlato di una combine. Questa, ripeto, è una delle accuse che viene mossa all'ex allenatore del Siena. Io immagino, ma spero anche per la procura di Cremona, che si sia proceduto alla formulazione di questo capo d'accusa sulla base di altri elementi e non solo di questa testimonianza. Con i piedini di piombo, immagino, no? Anche perché più si sale di livello e più immagino che qualche cautela giudiziaria venga usata. Ma ha senso parlare ancora di calcio? Domanda Andrea. Secondo me sì, e come? Cioè, mi pare che sarebbe interessante fare un calcolo di percentuali vere di personaggi e giocatori, perché personaggi estranei secondo me no, cioè di giocatori, di calciatori, eventualmente allenatori, uomini di calcio coinvolti in questa vicenda, per vedere cosa in questa e nelle altre eventuali vicende, per capire Marco Bellinazzo alla fine che cosa rappresentano da un punto di vista percentuale. Io mi auguro che siamo ampiamente sotto la doppia cifra, perché se no ci sarebbe davvero allarme. È stato ricordato comunque anche stamattina che il problema riguarda le infiltrazioni di organizzazioni criminali che purtroppo trovano terreno fertile in alcuni ambienti e presso alcuni calciatori che evidentemente, per motivi che è difficile da capire vista la condizione privilegiata in cui lavorano, certo, si fanno deviare, si fanno coinvolgere per ottenere facili guadagni, prestando però il fianco a critiche ancora più gravi, proprio perché parliamo di privilegiati e non di persone che si trovavano, certo, come dire, in una necessità di lucrare sulla buona fede delle persone, perché tra l'altro un'altra riflessione che si può fare è questa, cioè vista la rilevanza enorme che hanno le scommesse scommesse legali, certo, di tante persone che sono legittimate a scommettere, a giocare i propri risparmi, e che invece si trovano di fronte a combin e a partite truccate da quelli che sono poi l'oggetto della loro fede calcistica, e in questo caso anche legata appunto alle scommesse lecite, perché poi non dobbiamo criminalizzare il settore, un settore importante che dà lavoro, un lavoro diverso in questo caso forse è vero, sì, a tante persone, certo. Forse è giusto interrogarsi, come stamane Albertini ha cominciato a fare. Albertini è vicepresidente federale, quindi mi pare che abbia la veste per farlo, e lo faremo nei prossimi giorni con più calma e mente più fredda. Se il calcio, se il mondo del calcio in ambito internazionale non abbia avuto un po' fretta forse, no? di legarsi, ma insomma di concedersi a quest'altro mondo senza magari aver ben studiato prima certi meccanismi di autodifesa. Questo è un ragionamento che credo faremo. Adesso sentirei un passo che credo sia quello riferito a Criscito, dell'intervento di Albertini di poco fa. Mimmo, facendo la valutazione, sicuramente non sarà della spedizione azzurra agli europei, poi non sarà, credo che grande disappunto, credo che pensare di poter mettere nelle condizioni un giocatore, una delegazione, di parlare più che altro di un qualcosa che lui ha tanta fretta di poter concludere in maniera personale, più in fretta, quindi più breve tempo possibile, sia in questo momento il suo obiettivo principale. Giuseppe ha chiamato da Verona, buongiorno. Buongiorno, vi ringrazio per lo spazio. Volevo solo fare una battuta, speravo che portassero anche un avviso di garanzia per complicità intellettuale a Buffon, perché le sue dichiarazioni dei giorni scorsi e di qualche mese fa dopo Milan-Juventus appaiono veramente fuori luogo. Adesso rispetto a quello che è successo. No, beh, Giuseppe, mi scusi, io non farei confusione tra queste due dichiarazioni. Quella di Milan Juventus non vedo cosa c'entri in questo ambito. Quella dell'altro ieri, in effetti, si può profondamente discutere, anche perché stiamo parlando del neo vicepresidente dell'Associazione Italiana Calciatori. Resti in linea, perché nel caso qualcuno fosse sfuggito, sentiamo il maître à penser Buffon. Magari alcune volte, se qualcuno ci pensa bene, cosa devi fare? Come in alcuni casi si dice sempre, meglio due feriti che un morto. Poi è chiaro che le squadre, le partite se le giocano e sarà sempre così. Però penso che ogni tanto anche qualche conto è giustificato farlo. Che Marco, mi rivolgo un attimo, Giuseppe resta in linea, mi rivolgo un attimo a Marco Bellinazzo, detta così, detta magari al bar, detta con dei colleghi, con degli amici, bevendo un caffè, è una riflessione che ci può stare come. Se sei il capitano della nazionale, il vicepresidente fresco di nomina dell'Associazione Italiana Calciatori, se sei uno che in passato non, insomma, si sa, no? che una predisposizione alle scommesse lecite, per l'amor di Dio, ma insomma il gusto di scommettere l'hai sempre avuto, e si sa che sta per scoppiare un temporale, se non definitivo, ma insomma di quelli forti, sul nostro calcio, boh. Beh, non c'è dubbio che sono state dichiarazioni inopportune. Detto questo, io per esempio sono uno di quelli che pensa che due squadre che a un certo punto del campionato hanno ottenuto decitamente un numero di punti tali per cui, se pareggiano, riescono ad ottenere reciprocamente dei vantaggi, magari a danno di una terza squadra che quei punti non li ha ottenuti, credo che non ci sia nulla di male nell'accettare anche sportivamente questo risultato. Fa parte delle regole del gioco. Per non essere ipocriti bisogna dirlo e accettarlo. Sì. Ricordo uno Svezia-Danimarca di europei, parlando di europei, che ci tagliò fuori, che fu clamoroso. Però anche lì nacque dai meriti dell'Italia accumulati dai in precedenza. Esattamente. Quindi se vuoi, in quest'ottica possiamo accettarlo. Fare un passo in più e soprattutto farlo nella posizione di Buffon è stato inopportuno. Era questo che intendeva lei, Giuseppe? No, un po' più in profondità, cioè, era una battuta, però lo trovo un gradino, ma un gradino basso, più alto della corruzione. Dire ma sì, mettiamoci d'accordo, tanto ci va bene a tutti e due, e da lì si arriva a dire mettiamoci d'accordo, basta. Non più perché va bene a tutti e due, ci mettiamo d'accordo e basta. Giuseppe, giustificare, ma no, capito. Ma va bene a tutti, non so. È chiaro quello che lei intende. Io vedo che lei chiama da Verona, vero? Ecco, mi sarei immaginato che chiamasse, non so, da un'altra galassia, credo, visto il mondo in cui viviamo. Io credo che se arriviamo al mondo della politica, a quello della pubblica amministrazione e ad intorni di quel genere, credo che il discorso che ha fatto Buffon sarebbe un discorso da statista, addirittura. Poi è giusto, Marco. Sì. Ecco, poi è chiaro che noi nel calcio siamo più severi, siamo più esigenti, perché? Perché non vogliamo che ci sporchino il nostro tempo libero. E forse, dico io, dobbiamo continuare così, ma dobbiamo anche diventare leggermente più severi con chi invece ci sporca il nostro tempo non libero e ci inquina e ci. Vabbè, adesso andremo lontani, ma credo che il concetto sia chiaro. Roberto ha chiamato da Piacenza, buongiorno. Eccomi qua, buongiorno. Dica. Allora, io volevo dire questo per quanto riguarda Conte. Poco fa lei ha detto una frase santa, bisogna andarci con i piedi di piombo, anzi forse di ghisa. Ma se fosse riconosciuta la colpevolezza di Conte, come si comporta la Juventus che gli ha rinnovato 3 giorni fa il contratto allungandoglielo e raddoppiandoglielo a 3 milioni di euro? Non è il problema della cifra, eh? No, ho capito, è chiara la domanda, è chiara. Abbiamo 20 secondi per Marco Bellinazzo per rispondere. La Juventus ha voluto dare un messaggio chiaro con quel rinnovo, certo. E dopodiché sarà, qualora dovesse essere poi squalificato Conte, ma ci auguriamo tutti di no, si regoleranno tra di loro, però la Juve ha fatto capire che sta dalla parte di Conte a prescindere. Certo, ed è stato da una parte certamente un bel gesto. Credo che l'incautela sia stata messa in conto in precedenza. Era parte del progetto, anche del comunicativo. Grazie a Marco Bellinazzo. Grazie a voi, a presto, Gigi. Un saluto doveroso a Francesco. Grazie a Matteo Comes in regia, Franco Piattalini in redazione. Ci sentiamo domani. Yeah!